sentire ogni cosa. Quando ogni mia caduta è stata troppo profonda. Cos'è questo valera? Cos'è questo valera? Cos'è questo valera? Cos'è questo valera? Cos'è questo valera? Cos'è questo valera? Inspiegabilmente portare.